Capitolo 28. Sono trascorsi 2 giorni e una sera d'estate il cocchiere mi ha fatta scendere in un posto chiamato White Cross. Non poteva condurmi più lontano per la somma che gli avevo dato ed io non possedevo più nemmeno uno scellino. La carrozza deve essere ormai lontana più di 1 miglio, io sono sola. In questo momento mi accorgo di aver dimenticato di togliere il mio involto dalla sacca della vettura dove l'avevo messo per maggiore sicurezza. È rimasto là dentro e là rimarrà. Ora sono assolutamente spoglia e derelitta. White Cross non è un paese, nemmeno una frazione, soltanto un pilastro di pietra che sorge su un quadrivio, imbiancato a calce perché sia visibile in distanza e al buio, suppongo. 4 braccia si partono dalla sua sommità, delle 4 località che si indicano, la più vicina, secondo l'iscrizione, dista quasi 10 miglia. La più lontana, circa 20. I nomi conosciuti di quelle cittadine mi appresero in quale regione fossi arrivata. Era una contea settentrionale dell'interno, coperta di paludi e circondata di montagne, e questo lo vedevo. Grandi paludi si stendevano alle mie spalle e ai 2 lati. File ondulate di colline si susseguivano oltre la profonda vallata che avevo ai piedi. La popolazione doveva essere scarsa e non si scorgevano viandanti sulle 4 strade che correvano in 4 diverse direzioni, verso est, verso ovest, verso nord e verso sud, tutte ugualmente larghe, bianche e solitarie, tutte tagliate attraverso la brughiera e con l'erica che cresceva folta e selvatica fin sui marciapiedi. Tuttavia il caso poteva far passare qualcuno e io non volevo essere vista perché la gente si sarebbe chiesta che cosa facessi presso quel pilastro sola. Ed evidentemente senza meta. Potevano interrogarmi e poiché le risposte che avrei dato sarebbero state poco credibili, avrei fatto nascere dei sospetti. Nessun legame mi teneva unita in quel momento alla società umana. Nessuna speranza, nessuna attrattiva mi chiamava là dove erano i miei simili e nessuno tra coloro che avessi incontrato avrebbero avuto una buona parola, un pensiero gentile per me. Non avevo altri parenti che la madre universale, la natura, e sul suo seno avrei cercato riposo. Mi addentrai nella brughiera, raggiunsi una pista che solcava profondamente l'orlo scuro del padule ed avanzai affondando sino al ginocchio attraverso la fitta vegetazione finché scorsi in un angolo nascosto un grosso masso annerito dal muschio e sotto quello mi sedetti. Alte sponde paludose mi circondavano, le sporgenze del masso mi proteggevano il capo e al di sopra non vi era che il cielo. Passò un po' di tempo prima che anche lì mi sentissi al sicuro. Avevo il vago timore che qualche animale selvatico si aggirasse nelle vicinanze o che qualche cacciatore o un bracconiere mi scoprisse. Se un soffio di vento passava tra le eriche, alzavo il capo impaurita, temendo di veder sopraggiungere un toro. Se un piviere fischiava, immaginavo fosse un uomo. Ma accorgendomi infine che le mie apprensioni erano infondate, tranquillizzata anche dal profondo silenzio che regnava mentre scendeva la sera, ripresi coraggio. Fino a quel momento non avevo avuto modo di pensare, ero rimasta soltanto in ascolto, con le orecchie tese, gli occhi vigili e l'animo angustiato. Ora ritrovai la facoltà di riflettere. Che cosa avrei fatto? Dove sarei andata? Oh, domande intollerabili, non potendo far nulla né andare in alcun luogo. E quale distanza avrei dovuto percorrere con le mie membra stanche e indebolite prima di raggiungere un'abitazione umana ed implorare la carità di estranei per avere un ricovero? Quanti indifferenti avrei dovuto importunare, quanti rifiuti avrei ricevuto prima di trovare chi volesse ascoltare la mia storia o alleviare i miei bisogni? Toccai le eriche, erano secche ma conservavano ancora il tepore della giornata estiva. Guardai il cielo. Era puro e una stella benevola brillava proprio sopra la fenditura del masso che mi proteggeva. Il giorno finiva dolcemente. Non si udiva neppure il mormorio della brezza. La natura si dimostrava buona e benigna con me. Pensai che mi amasse, derelitta com'ero, ed io, che dagli uomini non potevo aspettarmi che diffidenze, ripulse e insulti, mi rifugiai in lei con tenerezza filiale. Per quella notte almeno sarei stata sua ospite, oltre che sua figlia. E mia madre mi avrebbe alloggiata senza esigere denaro né altro compenso. Mi rimaneva ancora un pezzetto di pane, il resto di una forma che avevo comperato con l'ultimo centesimo in un paese dal quale eravamo passati a mezzogiorno. Vidi occhieggiare qua e là more mature come chicchi di vetro in mezzo all'erica. Ne colsi una manciata e le mangiai col pane. La fame che mi tormentava, anche se non fu soddisfatta, si calmò un poco con quel pasto da eremita. Lo conclusi con le preghiere della sera e mi scelsi un giaciglio. Attorno al masso l'erica era folta. Quando mi fui stesa, i piedi ne furono coperti e intorno i cespugli crescevano così alti che lasciavano soltanto una stretta apertura all'aria notturna. Piegai doppio il mio scialle e me lo stesi sopra modico oltre. Una bassa sporgenza coperta di muschio mi servì di guanciale. Così, accomodata, durante la prima parte della notte almeno, non sentii freddo. Il mio riposo sarebbe stato abbastanza dolce senza la tristezza che mi opprimeva. Il mio cuore gemeva dalle ferite aperte, le sue corde spezzate sanguinavano. Tremava per il signor Rochester, per il suo destino, lo compiangeva con amara pietà. Lo desiderava con anelito incessante e, impotente come un uccello dalle ali spezzate, sbatteva i suoi monconi nel vano sforzo di volare sino a lui. Stremata da questo pensiero torturante, mi alzai in ginocchio. La notte era calata e i suoi pianeti brillavano in cielo. Una notte tranquilla, serena e troppo sicura perché la paura potesse tenermi compagnia. Sappiamo che Dio è ovunque, ma certo, sentiamo maggiormente la sua presenza quando le sue opere si stendono di fronte a noi in tutta la loro maestà. Ed è in un notturno cielo senza nubi, là dove i suoi mondi seguono il loro corso silenzioso, che leggiamo più chiaramente la sua infinita grandezza, la sua onnipotenza, la sua onnipresenza. Mi ero inginocchiata per pregare per il signor Rochester, alzando al cielo gli occhi velati di pianto. Vidi la Via Lattea in tutta la sua magnificenza. Pensando a ciò che era, ai mondi innumerevoli che traversano lo spazio simili a morbide tracce di luce, sentii la potenza e la forza di Dio. Ero sicura che egli poteva salvare ciò che aveva creato e mi sentii sempre più convinta che né la terra sarebbe perita né alcuna delle anime che le erano affidate. La mia preghiera si cambiò in un atto di grazia. La sorgente della vita era anche il salvatore delle anime. Il signor Rochester era salvo, apparteneva a Dio e Dio lo avrebbe custodito. Mi rannicchiai di nuovo nel seno della terra e poco dopo dimenticai nel sonno i miei dolori. Ma il giorno dopo il bisogno mi apparve macilento e nudo. Già da molto gli uccellini avevano lasciato i loro nidi, già le api ronzavano tra i fiori, al lavoro fin dal primo mattino a suggere il miele, avanti che la rugiada si asciugasse. Da molto le ombre lunghe dell'aurora s'erano accorciate e il sole brillava nel cielo e sulla terra. Mi alzai e mi guardai attorno. Che bella giornata, calma e serena, che dorato deserto era la brughiera. Il sole l'inondava tutta. Desiderai di poter vivere in quel luogo. Vidi una lucertola strisciare sulla roccia, vidi un'ape industre posarsi sulle more. In quel momento avrei voluto trasformarmi in ape o in lucertola per trovare io pure nutrimento e asilo, ma ero un essere umano e avevo bisogni umani, non potevo rimanere lì dove nulla poteva soddisfarli. Mi alzai e guardai il giaciglio dove avevo riposato. Senza speranze per l'avvenire, desiderai una cosa sola, che quella notte il mio creatore avesse pensato bene di chiamare a sé la mia anima nel sonno e che il mio corpo stanco, sottratto dalla morte a nuove lotte con il destino, ora non avesse che da dissolversi quietamente, mescolandosi in pace con la terra di quel luogo deserto. Ma la vita mi apparteneva ancora, con tutte le sue esigenze, i suoi dolori, le sue responsabilità. Era un fardello che bisognava portare, e bisognava soddisfare i bisogni, sopportare i dolori, accettare le responsabilità. Mi misi in cammino. Raggiunto White Cross, seguii una strada riparata dal sole che si era fatto ardente. Nessun'altra circostanza decise della mia scelta. Camminai a lungo e quando mi parve di aver fatto molta strada e di poter cedere con la coscienza tranquilla alla fatica che mi vinceva, mi sedetti su una pietra, abbandonandomi all'apatia che mi ottundeva lo spirito e mi immobilizzava il corpo. Ma proprio allora udii il suono di una campana, la campana di una chiesa. Mi volsi nella direzione di quel suono. E laggiù, tra romantiche colline che da un'ora almeno conferivano al paesaggio un aspetto mutato, del quale nella mia stanchezza non mi ero accorta, vidi una borgata e un campanile. Alla mia destra la valle era coperta di pascoli, di campi di grano e di boschi. Un ruscello dalle acque scintillanti scorreva tortuoso attraverso il verde, ora cupo, ora chiaro, delle praterie, tra le dorate distese dei campi di grano. Il bosco buio e le radure soleggiate. Distratta dalla mia contemplazione da un rumore di ruote, Vidi in lontananza un carro carico che saliva faticosamente la collina e poco distante due mucche col guardiano. La vita e il lavoro degli uomini mi venivano incontro. Dovevo continuare a lottare anch'io per vivere, piegarmi alla fatica come gli altri. Raggiunsi il villaggio verso le 2 pomeridiane. All'inizio della sua unica strada vi era un negozietto con molte forme di pane in vetrina. In quel momento un pezzo di pane era la cosa che più desideravo. Con quel ristoro forse avrei ripreso un po' di energia, ma senza di esso difficilmente sarei riuscita a proseguire. Il desiderio di essere forte e vigorosa ritornava in me, ora che mi trovavo di nuovo tra i miei simili. Mi vergognavo all'idea di cadere svenuta per la fame sulla strada di un paese. Non avevo proprio nulla addosso da poter offrire in cambio di uno di quei pani. Mi guardai, sì, avevo un fazzoletto di seta attorno al collo, avevo i guanti. Non sapevo come si comportasse una persona ridotta agli estremi della povertà. Non sapevo se uno di quei due oggetti sarebbe stato accettato. Probabilmente no, comunque, dovevo tentare. Entrai nel negozio. Al banco c'era una donna. Vedendo una persona decorosamente vestita, una signora, come certo suppose, mi venne incontro con premura. In che cosa poteva servirmi? Fui presa dalla vergogna e la mia lingua non riuscì a pronunciare la domanda che avevo preparato. Non osai offrire i guanti usati, il fazzoletto gualcito, capivo che sarebbe stato assurdo. Allora la pregai di lasciarmi sedere un momento perché ero stanca. Delusa di non avere di fronte una cliente, mi concesse freddamente ciò che chiedevo, additandomi una sedia sulla quale mi lasciai cadere. Le lacrime mi bruciavano già gli occhi, ma conscia dell'inopportunità di un simile sfogo, riuscii a trattenerle. Dopo un momento le domandai se vi fosse una sarta o una lavorante in biancheria nel paese. Sì, 2 o 3, quasi troppe per il lavoro che c'è. Riflettei, ormai ero alle strette e dovevo guardare in faccia la necessità. Mi trovavo nella condizione di chi è senza risorse, senza amici, senza un soldo. Dovevo fare qualche cosa, ma che cosa? Dovevo rivolgermi a qualcuno, ma a chi? Domandai alla donna se non sapesse di qualcuno in paese che avesse bisogno di una serva. No, non sapeva nulla. Che possibilità di lavoro offriva quel villaggio? Domandai che cosa faceva la maggior parte della gente. Alcuni sono contadini, mi fu risposto. Molti lavorano nella fabbrica di aghi del signor Oliver e alla fonderia. Impiega anche donne il signor Oliver? No, è un lavoro da uomini. E le donne che cosa fanno? Non lo so, fu la risposta. Chi fa una cosa, chi ne fa un'altra, la povera gente deve ingegnarsi come può. Sembrava annoiata delle mie domande e infatti quale diritto avevo di importunarla? Un paio di persone entrarono in negozio, evidentemente c'era bisogno della mia sedia e me ne andai. Traversai la strada guardando ogni casa a destra e a sinistra, ma senza trovare alcun pretesto né scorgere alcun segno che mi incoraggiasse a bussare a una di quelle porte. Mi aggirai per il paese per un'ora e anche più. Ora allontanandomene un poco, ora tornando sui miei passi, affranta e sfinita per la mancanza di cibo, svoltai in un viottolo e mi sedetti sotto una siepe. Ma pochi minuti dopo ero ancora in piedi, ancora alla ricerca di un aiuto, almeno di una persona che mi desse qualche indicazione. In fondo al viottolo scorsi una graziosa casetta con un giardino ben curato e tutto in fiore. Mi fermai. Perché mai avrei dovuto accostarmi a quella porta bianca o toccarne il lucido battente? Com'era possibile che gli abitanti di quella casa si interessassero a me? Tuttavia, mi avvicinai e bussai. Una giovane donna, linda nella persona e dall'espressione dolce, venne ad aprire, con la voce che ci si può aspettare da un corpo esausto e da un cuore disperato, una voce incerta e fioca, chiesi se avevano bisogno di una donna di servizio. No, rispose la donna, non ne teniamo. Saprebbe dirmi dove potrei trovare un'occupazione qualsiasi, continuai. Sono forestiera e non ho conoscenze da queste parti, ma cerco lavoro, non importa quale. Ma non era affare suo di pensare a me o di cercarmi un posto. Inoltre, come dovevano sembrare strani ai suoi occhi il mio aspetto, la mia situazione, le mie parole? Scrollò il capo. Disse che era dolente di non potermi dare informazioni e la porta bianca si richiuse, gentilmente, civilmente, ma lasciandomi fuori. Se l'avesse tenuta aperta un momento di più, credo che le avrei chiesto un pezzo di pane, perché ormai non avevo più ritegno. Non tolleravo l'idea di ritornare al villaggio, dove del resto non speravo di trovare alcun soccorso. Mi sentivo più propensa ad addentrarmi in un bosco che vedevo poco distante e il cui folto fogliame sembrava offrire un accogliente riparo, ma ero così stanca, così debole e torturata dalla fame, che l'istinto mi fece rimanere in prossimità dell'abitato, dove avevo più probabilità di trovare cibo. Bramavo la solitudine, ma non l'avrei avuta. Bramavo il riposo, ma mi sarebbe stato negato finché la fame, quell'avvoltoio, avesse continuato a rodermi dentro con il becco ed i rostri. Mi avvicinavo alle case, me ne allontanavo, vi ritornavo, girovagavo di nuovo più lontano, sempre respinta dalla consapevolezza di non avere alcun diritto di chiedere né di trovare soccorso e compassione per le mie sofferenze. Il pomeriggio avanzava, mentre io erravo come un cane sperso ed affamato. Attraversando un campo, scorsi il campanile della chiesa davanti a me. Mi affrettai a quella volta. Presso il camposanto, in mezzo ad un giardino, sorgeva una casetta ben costruita che doveva essere il presbiterio. Mi rammentai che i forestieri che arrivano in cerca di lavoro in un paese dove non hanno amici, qualche volta si rivolgono al pastore per farsi conoscere e aiutare. È compito dei pastori venire in aiuto, se non altro con consigli a chi cerca lavoro. Mi sembrò di avere una specie di diritto a chiedere consiglio in quella casa e riprendendo coraggio e facendo appello alle poche forze che ancora mi restavano, raggiunsi il presbiterio e bussai alla porta della cucina. Venne ad aprire una vecchia donna, le chiesi se quella fosse la casa del pastore. Sì, c'è il pastore? No. Tornerà presto? No, è andato via. Lontano? Non molto, a circa 3 miglia. È stato chiamato per la morte improvvisa di suo padre. Si trova a Marshend ora e forse vi rimarrà una quindicina di giorni. Ci sono signore in casa? No, c'era soltanto lei che era la governante. E a lei, lettrice, non osai chiedere il soccorso senza il quale stavo per cadere sfinita. Non ero ancora capace di mendicare e me ne andai. Mi rigirai di nuovo tra le mani il fazzoletto di seta e di nuovo pensai alle forme di pane nella bottega del fornaio, o anche solo una crosta, anche soltanto un boccone per calmare i morsi della fame. Istintivamente tornai verso il villaggio, ritrovai il negozio ed entrai. Benché la donna non fosse sola, le domandai se voleva darmi un panino in cambio del fazzoletto di seta. Mi guardò con aria sospettosa e mi rispose che non aveva mai fatto baratti di quel genere. Spinta dalla disperazione, le chiesi mezzo panino. Ella rifiutò ancora, dicendo che non poteva sapere dove avessi preso quel fazzoletto. Le chiesi se voleva i guanti, no, non sapeva che farsene. Lettrice, non è piacevole insistere su questi particolari. Alcuni dicono che fa bene ricordare le sofferenze passate, ma ancora oggi io soffro rievocando i momenti ai quali alludo. L'avvilimento morale unito alle sofferenze fisiche rappresenta un ricordo troppo penoso perché io mi ci soffermi volentieri. Non biasimavo chi mi respingeva, era ciò che dovevo aspettarmi, lo sapevo, e che non potevo impedire. Un mendicante, solito, molto spesso suscita sospetto. Un mendicante ben vestito, sempre. A dire il vero, io chiedevo lavoro, ma chi si sarebbe dato cura di procurarmelo? Non certo le persone che mi vedevano per la prima volta e che nulla sapevano di me. Quanto alla donna che non voleva accettare il mio fazzoletto in cambio del suo pane, aveva ragione. Se la proposta le pareva sospetta o il cambio svantaggioso, ma riassumiamo perché questo argomento mi riesce amaro. Poco prima che annottasse, passai davanti a una fattoria. La porta era aperta e sulla soglia stava seduto un contadino consumando la sua cena di pane e formaggio. Mi fermai e gli dissi: Vuol darmi un pezzo di pane? Ho tanta fame. Egli mi guardò meravigliato, ma senza rispondere tagliò dal pane una grossa fetta e me la porse. Immagino che non mi credesse una mendicante, bensì una signora un po' stramba, alla quale avesse fatto gola il suo pane scuro. Appena fui abbastanza lontano dalla casa per non essere veduta, mi sedetti e mi misi a mangiare. Non potendo sperare di essere accolta sotto un tetto, cercai riparo nel bosco del quale ho già parlato, ma passai una cattiva notte svegliandomi di frequente. Il suolo era umido, l'aria fredda, inoltre più di una volta fui disturbata dai passanti e dovetti cambiare posto. Non mi sentivo tranquilla né sicura. Verso mattina cominciò a piovere, tutto il giorno fu umido. Non chiedermi, lettore, di darti conto minutamente di quel giorno. Cercai lavoro come nei precedenti e come nei precedenti fui respinta. Continuai a soffrire la fame e solo una volta le mie labbra toccarono un po' di cibo. Sulla soglia di una villetta vidi una bambina che stava per gettare gli avanzi della minestra nel trugolo di un maiale. Vuol darla a me? Le chiesi. Ella mi guardò con occhi sbarrati. Mamma! Chiamò poi. C'è una donna che mi chiede di darle la minestra. Dagliela, rispose una voce dall'interno, sarà una mendicante, tanto il maiale non ne ha bisogno. La bambina mi versò in mano la zuppa che raffreddandosi era diventata solida e io la divorai avidamente. Mentre scendeva il crepuscolo, mi fermai in un sentiero solitario che seguivo da più di un'ora. Le forze mi abbandonano, dissi in un soliloquio. Sento che non riesco più ad andare avanti. Dovrò passare anche questa notte come una vagabonda. Mentre piove così dovrò posare la testa sulla terra bagnata. Eppure temo di non poter fare altrimenti perché chi mi vorrà ospitare? Ma sarà orribile con questa fame, questa debolezza, questo senso di freddo e di desolazione, di totale abbandono di ogni speranza. Molto probabilmente prima di domattina sarò morta. E perché non posso riconciliarmi con la prospettiva della morte? Perché lotto per conservare una vita che non ha valore? Perché so che il signor Rochester vive ancora, o almeno lo credo, e poi perché morire di fame e di freddo è un destino che la natura non accetta passivamente. Oh provvidenza, sostienimi ancora un poco, aiutami, guidami. I miei sguardi velati vagarono sul paesaggio scuro e nebbioso. Mi accorsi di essermi molto allontanata dal villaggio che si scorgeva appena. I campi coltivati che lo circondavano erano spariti. Per vie traverse e viottoli sperduti, mi ero trascinata di nuovo nei pressi dei terreni paludosi e soltanto pochi campi incolti e sterili, quasi quanto la brughiera alla quale erano stati strappati, mi separavano dalle cupe colline. Ebbene, meglio morire qui piuttosto che nella strada di un villaggio sulla via maestra, mi dissi. Preferisco che le mie carni siano divorate dai corvi, ammesso che ve ne siano da queste parti, piuttosto che sapere il mio corpo rinchiuso nella bara di un ospedale e sepolto nella fossa dei poveri. Così volsi i passi verso la collina e la raggiunsi. Non mi restava ora che trovare una buca del terreno dove potermi sdraiare e sentirmi perlomeno nascosta, se non sicura. Ma non vidi che una superficie unita ed uniforme. La sola varietà in quel terreno deserto era data dal colore. Verde dove i giunchi e il muschio coprivano le marcite, nera dove le zolle asciutte non producevano che erica. Annottava e non potevo più distinguere quelle tinte diverse se non per le macchie scure e chiare che formavano, perché i colori erano svaniti con la luce del giorno. I miei occhi continuavano a frugare i margini del padule e le malinconiche colline che si perdevano in uno scenario selvaggio e desolato, quando in un punto vago, molto lontano tra la brughiera e i monti, scorsi una luce. Un fuoco fatuo, mi dissi a tutta prima, aspettandomi che svanisse, ma la luce continuava a brillare, ferma, senza avanzare né retrocedere. Sarà un falò appena acceso, pensai, continuando a guardare per vedere se crescesse, ma no, non diminuiva né aumentava. Deve essere il lume di una casa, ne arguì infine, ma anche se lo è, non riuscirò mai ad arrivarci, è troppo lontano, e anche se fossi a pochi metri, a che mi servirebbe? Busserei a quella porta soltanto per vedermela chiudere in faccia. Mi lasciai cadere per terra dove mi trovavo, nascondendo il viso in mezzo all'erica. Rimasi immobile per un certo tempo. Il vento della notte passava sulla collina e su di me e si perdeva gemendo in lontananza. La pioggia cadeva fitta, inzuppandomi fino alle ossa. Se il freddo mi avesse subito intirizzita, se il soccorrevole torpore che precede la morte mi avesse resa insensibile, cadesse pure la pioggia su di me, io non l'avrei più avvertita, ma la mia carne, ancora viva, rabbrividiva a quell'umido contatto e poco dopo mi alzai. La luce era ancora là, indistinta ma ferma attraverso la pioggia. Provai a rimettermi in cammino, trascinando a stento le mie membra esauste verso quel punto luminoso. Risalii obliquamente la collina attraverso un grande pantano che sarebbe stato impraticabile in inverno e che anche ora, nel pieno dell'estate, era molle e cedevole. In quel fango caddi due volte e due volte mi rialzai facendo appello a tutte le mie forze. Quella luce laggiù era la mia ultima speranza, dovevo raggiungerla. Attraversando il pantano, scorsi una linea bianca in mezzo alla brughiera. Mi avvicinai. Era una strada o piuttosto un sentiero che conduceva dritto al punto luminoso, acceso su di una montagnola in mezzo a un ciuffo d'alberi, che mi parvero abeti per quel che potei distinguere nel buio. La mia stella svanì mentre mi avvicinavo. Un ostacolo si era frapposto tra me e il lume. Stesi la mano per sentire che cosa fosse la massa scura che mi si parava davanti. Era un muro di pietra, basso, con una specie di palizzata in cima, chiusa all'interno da un'alta siepe spinosa. Avanzai a tastoni. Qualche cosa di chiaro baluginò davanti a me nel buio. Era un cancello di legno, e girò sui cardini quando lo toccai. Appena dentro, ai due lati, scorsi folti cespugli scuri, forse agrifoglio o bosso. Lì oltrepassai e il profilo di una casa si disegnò nel fondo, nera, bassa e piuttosto lunga. Ma la luce che mi aveva guidata non brillava più. Tutto era immerso nell'oscurità. Gli abitanti erano forse andati a dormire. Temetti che così fosse. Cercando la porta, svoltai l'angolo della casa e la luce amica mi apparve di nuovo attraverso i vetri a losanga di una piccola finestra con la grata che scendeva fin quasi a terra, ancora più rimpicciolita dai tralci di edera o di qualche altra pianta rampicante che rivestivano fittamente il muro nel quale essa si apriva. La finestra era così stretta e seminascosta dal fogliame che si era creduto superfluo di mettervi gli scuri o le tendine. Così, quando mi curvai a guardare, scostando un poco i tralci, potei vedere bene nell'interno. Vidi una stanza pulita, dal pavimento coperto di rena, una credenza di noce sulla quale erano disposti in fila alcuni piatti di peltro che riflettevano il chiarore rossastro di un fuoco di torba. Scorsi anche una pendola, un tavolo bianco e qualche sedia. La candela, il cui lume era stato la mia guida, ardeva sul tavolo. Accanto ad esso sedeva una donna anziana, dall'aspetto contadino, ma scrupolosamente linda, come tutto quanto la circondava, occupata a far la calza. Non mi soffermai con lo sguardo su quanto descritto perché non vi era nulla di straordinario. Dopo una rapida occhiata, la mia attenzione fu attirata invece da due persone sedute tranquillamente presso il focolare, nel caldo e roseo chiarore diffuso dalla fiamma. Erano due donne giovani e graziose, due vere signore, l'una seduta in una bassa sedia d'ondolo, l'altra su uno sgabellino. Erano in lutto grave e il nero opaco delle vesti di crespo faceva maggiormente risaltare la bianchezza del collo e del viso. Un vecchio cane da caccia, accucciato ai loro piedi, aveva appoggiato la grossa testa sulle ginocchia ad una delle ragazze, l'altra teneva in grembo un gatto nero. Sembrava strano di vedere due ragazze come quelle in una cucina tanto umile. Chi potevano essere? Non certo le figlie della vecchia seduta presso il tavolo, poiché ella era rustica e loro tutte delicatezza ed educazione. Non le avevo mai vedute, eppure osservandole, i loro lineamenti mi parevano familiari. Non potevano dirsi belle, erano troppo pallide, troppo gravi, e quando entrambe si chinarono su di un libro, la loro espressione pensierosa si accentuò fino a diventar severa. Su un tavolino posto tra loro due vi era un'altra candela e due grossi volumi che consultavano spesso, confrontandoli evidentemente con quelli più piccoli che tenevano in mano, come chi consulta un dizionario per aiutarsi nel tradurre. La scena era silenziosa, come se tutte le figure fossero state ombre e la stanza illuminata un quadro. Il silenzio era così profondo che sentivo la cenere cadere sotto la grata e la pendola ticchettare nel suo angolo. Mi pareva persino di percepire il lieve clic clic degli aghi da calza della vecchia. Così, quando una voce ruppe al fine quello strano silenzio, l'udii distintamente. Ascolta, Diana, disse una delle due studiosi, Franz e il vecchio Daniele sono insieme durante la notte e Franz racconta un sogno dal quale si è svegliato in preda alla paura. Ascolta. E a voce bassa si mise a leggere qualche cosa di cui non capii neppure una parola perché leggeva una lingua che non conoscevo e che non era né francese né latino. Se fosse greco o tedesco non lo potrei dire. È forte, disse la ragazza quando ebbe finito, mi piace. L'altra, che aveva alzato il capo per ascoltare la sorella, ripeté, fissando il fuoco, una frase di ciò che era stato letto. In seguito imparai quella lingua e lessi il libro, e per questo voglio citare qui quella frase, anche se la prima volta che l'udii mi parve soltanto un susseguirsi di suoni metallici, privi per me di alcun significato. Da trat er vor eine, anzusehen, wie die Sternennacht. Uno venne fuori come una notte stellata. Bello, bellissimo, esclamò con uno scintillio negli occhi neri e profondi. Ecco tratteggiata in poche parole la figura misteriosa e potente di un arcangelo. È una frase che vale 100 pagine di stile enfatico e ampolloso. Ich wege die Gedanken in der Schale meines Zornes und die Werke mit dem Gewichte meines Grimms. Io peso i pensieri nella bilancia della mia ira e le opere col peso del mio rancore. Mi piace. Tacquero di nuovo entrambe. C'è un paese dove parlano a quel modo? Domandò la vecchia alzando il capo dal lavoro. Sì, Anna, un paese molto più grande dell'Inghilterra, dove parlano così. Bah, non so proprio come facciano a capirsi. Se una di voi ci andasse, capirebbe quello che dicono? Qualche cosa, probabilmente sì, ma non tutto, perché non siamo così brave come credi, Anna. Non sappiamo parlare tedesco e non lo leggiamo senza l'aiuto del dizionario. E che cosa ve ne farete di quella lingua? Abbiamo intenzione di insegnarla un giorno o l'altro, o perlomeno di insegnare gli elementi, come si dice, e allora guadagneremo più di oggi. È probabile, ma adesso basta studiare, avete fatto abbastanza per questa sera. Credo di sì, perché sono stanca e tu, Mary? Stanchissima. Non è un lavoro da poco imparare una lingua senza altro maestro che un dizionario. Sì, specialmente una lingua bisbetica come il tedesco. Splendida, tuttavia. Chissà quando tornerà a St. John. Non può tardare ormai, sono le 10, aggiunse guardando un orologino d'oro che teneva alla cintura. Piove forte, Anna, fammi il piacere di dare un'occhiata al fuoco del salotto. La vecchia si alzò, aperse una porta, attraverso la quale scorse indistintamente un corridoio. La udii attizzare il fuoco in una stanza interna, poi riapparve. Ah, bambine, disse, ci fa male adesso entrare in quella stanza, è così triste con la poltrona vuota e spinta in un canto. Si asciugò gli occhi con una cocca del grembiule e le due ragazze prima gravi, ora si fecero addolorate. Ma adesso è in un luogo migliore, continuò Anna. Non dovremmo desiderare di riaverlo qui, e poi è impossibile fare una morte più tranquilla della sua. Hai detto che non ha mai accennato a noi? Chiese una delle due ragazze. Non ne ha avuto il tempo, bambine. Se n'è andato in un istante il vostro povero padre. S'era sentito poco bene il giorno prima. Ma sembrava una cosa da poco e quando il signor St. John gli chiese se voleva che chiamassimo una di voi due si mise a ridere. Il giorno dopo sono 2 settimane. Si sentiva ancora la testa un po' pesante. Andò a dormire e non si svegliò più. Era già quasi rigido quando vostro fratello entrò in camera e lo trovò morto. Oh, bambine, era l'ultimo del vecchio stampo perché voi e il signor St. John siete diversi. Siete in tutto uguali a vostra madre. Anche lei era tanto istruita. Mary è tutta il suo ritratto. Diana assomiglia più a suo padre. A me sembrava si assomigliassero tanto che non capivo dove la vecchia serva, poiché ormai avevo concluso che tale doveva essere, trovasse una differenza tra le due sorelle. Entrambe erano snelle e con la pelle bianca, entrambe avevano una fisionomia intelligente e fine. Una, è vero, aveva i capelli un po' più scuri dell'altra e diversamente pettinati. I ricci di Mary, d'un castano chiaro, erano divisi in mezzo e lisciati attorno al viso. Le trecce più scure di Diana terminavano in riccioli sul collo. L'orologio suonò le 10. Vorrete cenare, disse Anna, e certo anche il signor St. John avrà fame al suo ritorno. Si mise a preparare la cena e le due ragazze si alzarono come se volessero ritirarsi in salotto. Fino a quel momento ero stata così intenta ad osservarle e il loro aspetto e la loro conversazione avevano tanto eccitato il mio interesse che avevo quasi dimenticato la mia penosa situazione. Ma ora mi tornava alla mente e per contrasto mi parve ancora più orribile e disperata. Come avrei potuto chiedere la compassione delle abitatrici di quella casa e indurle a credere alle mie sofferenze e ai miei bisogni? Come convincerle a concedermi asilo nella mia miseria? Mentre a tastoni raggiungevo la porta e con mano esitante bussavo, quest'ultima idea mi parve una vera chimera. Anna aperse. Che cosa desidera? Chiese una voce sorpresa, esaminandomi alla luce della candela che teneva in mano. Posso parlare con le padrone? Dissi. Sarà meglio che dica a me che cosa vuole, di dove viene. Sono un forestiera. Che cosa viene a fare qui a quest'ora? Cerco rifugio per la notte in una capanna o in qualunque angolo e un boccone di pane. Proprio come temevo, la diffidenza si dipinse sul volto di Anna. Le darò un pezzo di pane, rispose dopo un momento, ma non diamo asilo ai vagabondi. Mi lasci parlare alle sue padrone. Nemmeno per idea, che cosa potrebbero fare per lei? E poi non dovrebbe andare in giro a quest'ora, fa pensar male. Ma dove andrò se mi cacciate? Che cosa farò? Oh, sono sicura che sa benissimo dove andare e che cosa fare. Cerchi di non agir male se vuole un consiglio. Ecco un centesimo e adesso vada. Un centesimo non può sfamarmi e non ho più la forza di camminare. Non chiuda la porta o non la chiuda, per amor di Dio. Devo chiudere, entra l'acqua in casa. Chiami le signorine e mi faccia parlare con loro. Ho detto di no. Lei non è quella che vuol sembrare, altrimenti non farebbe tanto chiasso. Se ne vada. Ma morirò se lei mi scaccia. No, certo, sono sicura che lei ha cattive intenzioni per ronzare a quest'ora intorno alle case. Se c'è qualcuno con lei, ladro o vagabondo, gli dica pure che non siamo sole in casa. C'è anche un uomo e cani e fucili. E così dicendo, l'onesta ma inflessibile serva chiuse la porta e tirò il chiavistello. Questo era il colmo della sventura. Un dolore atroce mi lacerò il cuore, un singhiozzo disperato mi sfuggì dal petto. Ero sfinita, non potevo più muovere un passo. Mi accasciai sugli scalini bagnati, torcendomi le mani e piansi e gemetti sopraffatta dall'angoscia. Oh, lo spettro della morte! Oh, l'ora estrema che si approssimava in tanta miseria! E quella solitudine, quell'isolamento dai miei simili, non solo l'ancora della speranza, ma anche la forza d'animo mi aveva abbandonata. Per un momento almeno, perché presto tentai di ritrovarla. Non posso che morire, mi dissi, ma credo in Dio e cercherò di aspettare in silenzio che la sua volontà sia fatta. Queste parole non le avevo soltanto pensate, ma anche pronunziate, e ricacciando la disperazione in fondo al cuore, la costrinsi a rimanervi, muta e calma. Tutti dobbiamo morire, disse a un tratto una voce accanto a me. Ma non tutti sono condannati a una morte prematura e dolorosa come sarebbe la sua se morisse qui ora di sfinimento. «Chi ha parlato?» domandai atterrita da quella voce inattesa, incapace ormai di sperare in un soccorso. Una forma mi era vicina, ma la notte buia come la pece e la mia vista indebolita mi impedivano di distinguerla. Il nuovo venuto bussò forte alla porta. «È lei, signor St. John?» chiese la voce di Anna. «Sì, sì, apri, presto!» Chissà come bagnato e intirizzito con una notte come questa. Entri, le sue sorelle stavano in pena per lei e credo ci sia qualche malintenzionato che ronza intorno alla casa. Poco fa è stata qui una mendicante e non se n'è andata ancora. Eccola là, si alzi, che vergogna, via di qua, dico. Zitta, Anna. Devo dire una parola a quella donna. Tu hai fatto il tuo dovere mandandola via e ora lasciami fare il mio permettendole di entrare. Ero vicino e ho sentito la vostra conversazione. Credo sia un caso speciale. Devo perlomeno rendermene conto. Quella donna si alzi e venga dentro. Ubbidii con difficoltà e mi trovai nella cucina linda e illuminata, accanto al focolare, tremante e smarrita, ma ancora abbastanza presente a me stessa per provare vergogna di presentarmi a quel modo, bagnata, lacera e disfatta. Le due signorine, il signor St. John, loro fratello e la vecchia serva, mi fissavano sbalorditi. «St. John, chi è?» udii domandare. «Non lo so, l'ho trovata sulla porta», fu la risposta. «Com'è pallida», disse Anna, «pallida come la cera o come la morte. Fatela sedere, non si regge in piedi». E infatti la testa mi girava. Mi sentii venir meno, ma caddi su una sedia. Non avevo perduto la conoscenza, ma in quel momento ero incapace di parlare. «Forse un po' d'acqua la rianimerà, Anna. Porta un bicchiere, ma è ridotta a uno spettro, com'è magra e così pallida che sembra dissanguata. Un vero spettro. È malato, avrà soltanto fame. È affamata, credo. Anna, c'è un po' di latte, portamelo con un pezzo di pane». Diana la riconobbi dai lunghi ricci che spiovero tra me e il fuoco quando ella si chinò sul mio viso. Spezzettò il pane nel latte e me lo avvicinò alle labbra. Il suo volto era vicino al mio e vi lessi una pietà sincera, mentre il suo respiro turbato rivelava un'anima misericordiosa. Anche nelle semplici parole che mi rivolse, «Si sforzi a mangiare», intesi una bontà che mi fece bene al cuore. «Su, si sforzi», ripeté gentilmente Mary, e la sua mano mi tolse il cappello inzuppato e mi sorresse la testa. Assaggiai quello che mi offrivano, prima a stento e poi avidamente. «Non tutto in una volta, trattenetela», disse il fratello. «Per ora ha avuto abbastanza», e allontanò la tazza di latte e il piatto con il pane. «Ancora un poco, St. John, guarda che occhi avidi. Basta per adesso, sorella, vedi se può parlare, chiedile come si chiama». Sentii che ero in grado di parlare e risposi: «Mi chiamo Jane Elliot». Preoccupata fin dal momento della mia fuga di non essere scoperta, già allora avevo stabilito di assumere un altro nome. «E dove abita? Non ha amici?» Non risposi. «Possiamo mandare a chiamare qualcuno che conosce?» Scossi il capo. «Quali informazioni può dare sul suo conto?» Non saprei dire come, ma ora che avevo varcato la soglia di quella casa e che mi trovavo faccia a faccia con chi l'abitava, non mi sentivo più una reproba, una vagabonda, una diseredata dalla vita. Osai spogliarmi dell'apparenza della mendicante, riassumere il mio carattere e le maniere che mi erano naturali. Cominciavo a riconoscermi e quando il signor St. John mi domandò qualche spiegazione, che al momento ero troppo debole per dargli, dopo una breve pausa risposi: «Signore, questa sera non posso dirle nulla. Ma allora che cosa si aspetta che io possa fare per lei?» «Nulla», dissi. Non avevo forza che per rispondere brevemente. Allora intervenne Diana. «Intende dire?» mi chiese. «Che le abbiamo già dato l'aiuto di cui aveva bisogno?» La guardai. Aveva una fisionomia fuori dell'usuale che esprimeva forza e bontà. Improvvisamente ripresi coraggio e rispondendo al suo sguardo compassionevole, con un sorriso, dissi: Ho fiducia in lei. Se fossi un cane smarrito e randagio, so che non mi scaccerebbe di casa sua questa notte, così non ho paura. Faccia di me e per me quello che vuole, ma mi scusi se darò poche risposte. Ho il respiro corto e sento uno spasimo nel petto quando parlo. Tutti e tre mi guardarono e tutti e tre rimasero in silenzio. Anna, disse alfine il signor St. John, lasciala qui per ora e non farle domande. Tra una decina di minuti dalle il resto del latte col pane. Mary e Diana, venite in salotto e parleremo di questa faccenda. Si ritirarono. Poco dopo una delle signorine tornò, non saprei dire quale. Una benefica sonnolenza si era impadronita di me mentre sedevo accanto al fuoco scoppiettante. A voce bassa ella dette alcuni ordini ad Anna e non passò molto che con l'aiuto della serva io mi trascinavo su per una scala. Le vesti bagnate mi furono tolte e un letto caldo e morbido mi accolse. Ringraziai Iddio, provando, pur nella mia estrema debolezza, uno slancio di gioia riconoscente e mi addormentai. Capitolo 29. Il ricordo dei 3 giorni e delle 3 notti che seguirono è molto confuso nella mia mente. Rammento d'aver provato delle sensazioni, ma non di aver pensato. Sapevo di trovarmi in una piccola camera, in un piccolo letto. Mi pareva di essere legata a quel letto. Vi giacevo immobile come una pietra e strapparmici avrebbe quasi voluto dire uccidermi. Non mi rendevo conto del passare del tempo, dell'alternarsi del giorno e della notte. Quando qualcuno entrava o usciva dalla stanza me ne accorgevo, distinguevo anche chi era, capivo che cosa diceva se mi parlava da vicino, ma non potevo rispondere. Aprire le labbra o muovere le membra mi era ugualmente impossibile. Anna, la domestica, era quella che veniva più spesso a trovarmi e le sue visite mi disturbavano. Intuivo che avrebbe preferito che me ne andassi, che non comprendeva né me né le mie condizioni e che era mal disposta verso di me. Diana e Mary comparivano una o due volte al giorno e le sentivo mormorare accanto al letto frasi come queste. Abbiamo fatto bene a raccoglierla. Sì, l'avremmo certo trovata morta davanti alla porta la mattina se l'avessimo lasciata fuori tutta notte. Chissà che cosa le è accaduto. Deve aver sofferto molto, è così pallida e emaciata, povera creatura. Si direbbe una persona educata dal modo di parlare, ha un accento puro, i vestiti che ha smesso, anche se laceri e bagnati, erano fini e poco usati. Ha un viso strano, anche sciupato come mi piace. Animata e in salute deve essere graziosa. Non una sola volta nei loro dialoghi intesi una parola che esprimesse pentimento per l'ospitalità concessami, o sospetto, o avversione a mio riguardo, e ciò mi consolava. Il signor St. John venne una volta sola e, dopo avermi guardata, disse che il mio letargo era la reazione a una fatica eccessiva e prolungata. Aggiunse che era inutile chiamare il medico e che la natura, lasciata libera di agire, sarebbe stata il rimedio migliore. Evidentemente i nervi erano stati sottoposti a una tensione troppo grave e tutto il sistema nervoso aveva bisogno di un lungo e assoluto riposo. Non avevo altro male ed egli riteneva che la convalescenza, una volta cominciata, sarebbe stata abbastanza rapida. Espresse queste opinioni in poche parole, con voce bassa e pacata, e dopo una pausa disse col tono di un uomo poco avvezzo a commenti espansivi: Una fisionomia insolita che non indica certo né volgarità né degradazione. Tutt'altro, osservò Diana, a dire la verità, St. John, il mio cuore si è quasi affezionato a questa poverina. Vorrei essere in grado di continuare ad aiutarla. Mi pare molto improbabile, fu la risposta. Scopriremo che è qualche signorina che si è bisticciata con i suoi e poco giudiziosamente è fuggita di casa. Forse riusciremo a restituirla alla famiglia, se non è ostinata, ma le si legge in viso una volontà che mi rende scettico sulla sua arrendevolezza. Mi osservò per qualche minuto, poi aggiunse: Ha un viso sensibile, ma non è bella. È tanto malata, St. John. Malata o sana, bella non è. I suoi lineamenti non hanno la grazia e l'armonia della bellezza. Il terzo giorno stavo meglio. Il quarto potei parlare, muovermi, sedermi sul letto e voltarmi. Anna mi aveva portato una minestra d'avena e un po' di pane tostato verso l'ora di pranzo. O almeno così supposi. Mangiai con piacere. Il cibo era buono e privo, finalmente, del gusto sgradevole che quando ero febbricitante mi sembrava avesse tutto ciò che ingoiavo. Così, quando Anna lasciò la stanza, mi sentii relativamente in forza ed animata e da quell'istante, finalmente sazia di riposo, Provai di nuovo il bisogno di muovermi e di agire. Decisi di alzarmi, ma con che cosa mi sarei vestita? Non avevo altro che gli abiti laceri e sporchi con i quali avevo dormito per terra, nel fango e sotto la pioggia. L'idea di presentarmi così malconcia ai miei benefattori mi faceva arrossire di vergogna, ma quell'umiliazione mi fu risparmiata. Su una sedia accanto al letto erano stesi i miei indumenti, asciutti, ripuliti e bene in ordine. Il mio vestito di seta nera pendeva da una gruccia alla parete. Le chiazze di fango erano state tolte, così pure le pieghe lasciatevi dall'umidità. Insomma, era di nuovo un abito decente. Anche le scarpe e le calze, lavate e lucidate, erano tornate presentabili. La stanza era provvista dell'occorrente per lavarsi e pettinarsi. Un po' alla volta, e riposandomi ogni 5 minuti, riuscii a vestirmi. Ero tanto dimagrita che l'abito mi cadeva troppo largo dalle spalle. Vi rimediai avvolgendomi in uno scialle e ripreso così un aspetto lindo e decoroso, sparita ogni traccia di quel sudiciume e di quel disordine che mi erano sembrati un segno di degradazione. Scesi la scala di pietra con passo ancora malfermo, reggendomi alla balaustra. Poi percorsi uno stretto corridoio ed entrai in cucina. Vi si respirava il buon odore del pane appena sfornato e il fuoco che ardeva nel camino diffondeva intorno un piacevole calore. Anna stava cuocendo il pane. Tutti sanno quanto sia difficile sradicare i pregiudizi da un cuore primitivo e ineducato, perché vi stanno abbarbicati come erbacce tra le pietre. Anna si era mostrata dura e fredda con me in principio, poi si era un po' ammansita ed ora, vedendomi entrare linda e ben vestita, mi sorrise. «Come si è alzata?» disse. «Si sente meglio allora? Si siede accanto al fuoco sulla mia seggiola se vuole» e mi additò una sedia ad ondolo. Mi sedetti ed ella ritornò alle sue faccende, sbirciandomi ogni tanto con la coda dell'occhio. Poi, voltandosi verso di me, mentre levava qualche pane dal forno, a un tratto mi domandò: «Aveva mai mendicato prima di venire qui?» A tutta prima mi sentii offesa, ma ricordandomi che andare in collera sarebbe stato sciocco e che veramente mi ero presentata a lei come una mendicante, risposi tranquillamente, ma con una certa fermezza: «È in errore, Anna, a credermi una mendicante, non lo sono più di quanto non lo sia lei o le sue signorine». Dopo una pausa, la vecchia domestica riprese: «Non capisco, mi sembra che lei non abbia né casa né denaro, o sbaglio?» «Si può non avere né casa né denaro senza essere mendicanti, nel senso che lei attribuisce alla parola». «È istruita?» mi domandò poi. «Sì, molto, ma non sarà mai stata in collegio. Ci sono stata 8 anni». Spalancò gli occhi. «Ma allora perché non si guadagna la vita?» «Me la sono guadagnata, infatti, e spero di guadagnarmela ancora. Che cosa ne fa di quell'uva spina?» domandai, vedendo che ne prendeva un panierino. «Mi serve per le torte. Dia qui che gliela sgrano io». «No, non voglio che lavori, ma devo far qualcosa. Su, me la dia!» Acconsentì e mi portò persino un tovagliolo pulito da stendermi sulle ginocchia. Altrimenti, disse, rischia di insudiciarsi il vestito. «Lei non deve essere abituata a fare questi lavori, lo vedo dalle mani», osservò poi. «Faceva forse la sarta?» «No, sbaglia ancora. Ma non importa quello che facevo, non stia più a pensarci. Mi dica piuttosto come si chiama questa casa». «Oh, c'è chi la chiama Marsh End, chi Moor House. E il signore che abita qui si chiama St. John?» «Non abita qui, ci è venuto per poco. La sua casa è nella parrocchia di Morton. Il paese è a poca miglia di qua?» «Sì. E che cosa fa il signor St. John?» «È pastore». Mi ritornò alla mente la risposta datami dalla vecchia governante del presbiterio quando le avevo chiesto di parlare al pastore. «Allora», ripresi, «questa è la casa di suo padre?» «Sì, il vecchio signor Rivers abitava qui, e prima di lui suo padre, suo nonno e il suo bisnonno». «Così il signore che ho visto si chiama St. John Rivers?» «Sì, St. John è il suo nome di battesimo». «E le sue sorelle si chiamano Mary e Diana Rivers?» «Sì». «E il padre è morto?» 3 settimane fa, di un colpo. Non hanno madre? Ah, la padrona è morta da molti anni. È da parecchio che serve in questa casa? Da 30 anni li ho allevati io tutti e tre. Ciò prova che è una dipendente onesta e fedele. Parlerò sempre bene di lei, anche se ha avuto la scortesia di chiamarmi mendicante. Mi guardò di nuovo meravigliata. Adesso so che mi sono sbagliata sul suo conto, disse, ma ci sono in giro tanti imbroglioni che mi deve scusare. E nonostante, continuai piuttosto severamente, abbia voluto scacciarmi in una notte in cui non si sarebbe chiuso fuori nemmeno un cane. È vero, sono stata dura, ma che cosa potevo fare? Pensavo più alle ragazze che a me stessa, poverine, non hanno nessuno al mondo che vegli su di loro all'infuori di me, così devo essere prudente anche a rischio di sembrare cattiva. Per qualche minuto osservai un silenzio grave. Non deve giudicarmi troppo severamente, riprese ella. Certo che la giudico severamente, dissi, e le spiegherò il perché, non tanto perché ha rifiutato di darmi asilo o perché mi ha creduto un'imbrogliona, quanto perché proprio poco fa mi ha quasi rimproverata di non avere una casa né denaro. Più di una creatura, e tra le migliori che siano vissute sulla terra, è stata povera e derelitta quanto me, e se lei è cristiana non dovrebbe considerare la povertà come un delitto. Lo so, riprese. Me lo dice anche il signor St. John. Capisco di aver sbagliato, ma ora ho di lei un'opinione tutta diversa, perché ha l'aspetto di una ragazza pulita e per bene. Basta, le perdono, mi dia la mano. Ella mise nella mia la sua mano infarinata e callosa. Un altro sorriso ancora più cordiale le illuminò il volto grossolano e da quel momento fummo amiche. Ad Anna piaceva chiacchierare, evidentemente perché mentre io sgranavo la frutta e lei preparava la pasta per le torte, cominciò a parlarmi con dovizia di particolari dei padroni defunti e dei ragazzi, come chiamava, i loro tre figli. Il vecchio signor Rivers disse era un uomo semplice, ma un signore e di antica famiglia. Marsh End apparteneva ai Rivers da che era una casa. «È costruita da 200 anni», affermò la serva, «anche se sembra molto piccola e umile in confronto alla grande villa del signor Oliver giù nella valle di Morton». Ma lei ricordava ancora il padre di Bill Oliver che lavorava a giornata nella fabbrica di aghi, mentre i Rivers erano signori fin dal tempo degli Enrichi, come chiunque poteva constatare sui registri della chiesa di Morton. Era pur vero, ammise, che il vecchio padrone sembrava un qualsiasi uomo di campagna in vita e niente lo distingueva dagli altri. Andava matto per la caccia e gli piaceva lavorare i campi e fare altri lavori da contadino. La padrona era diversa. Leggeva molto, amava lo studio e i ragazzi avevano preso da lei. Non c'era mai stato nessuno come loro da quelle parti. Tutti e tre erano stati studiosi fin da piccoli e sembravano fatti di una pasta diversa. Il signor St. John, quando si era fatto grande, aveva voluto entrare in seminario per diventare pastore. Le ragazze, appena finite le scuole, avevano cercato lavoro come istitutrici perché sapevano che anni prima il padre aveva perduto molto denaro in seguito al fallimento di un uomo nel quale aveva riposto la sua fiducia. Così, non potendo più contare sul patrimonio di famiglia, si erano viste costrette a guadagnarsi la vita. Da un pezzo vivevano poco a casa ed ora erano venute a passarvi qualche settimana in occasione della morte del padre, ma amavano molto Marsh End e Morton e la brughiera e le colline del loro paese. Erano state a Londra e in molte altre grandi città, ma dicevano sempre che in nessun luogo stavano bene come a casa loro. E poi andavano così d'accordo che sarebbe stato difficile trovare una famiglia più unita della loro. Quando ebbi finito di sgranare l'uva spina, le chiesi dove fossero in quel momento le due signorine ed il fratello. Sono andati a Morton a fare una passeggiata, ma torneranno tra una mezz'ora per il tè. Infatti tornarono, come aveva detto Anna, ed entrarono dalla porta della cucina. Il signor St. John, quando mi vide, mi salutò con un cenno del capo e passò oltre. Le due signorine si fermarono. Mary, con poche parole gentili e posate, espresse il piacere di vedermi abbastanza ristabilita da poter scendere le scale. Diana mi prese la mano, scrollando il capo. «Avrebbe dovuto aspettare che le dessi il permesso di scendere», disse. «È ancora molto pallida e magra, povera piccina, povera ragazza». Diana aveva una voce che alle mie orecchie suonava come il tubare di una tortora e uno sguardo che mi deliziava quando lo incontravo. Tutti i suoi tratti mi sembravano affascinanti. Anche Mary aveva un viso intelligente ed altrettanto grazioso, ma aveva un'espressione più riservata e i modi, benché gentili, un po' distanti. Lo sguardo e il modo di parlare di Diana erano improntati a una certa autorevolezza che rivelava in lei un temperamento volitivo. Era nel mio carattere di sottomettermi volentieri ad un'autorità come la sua e di piegarmi quando la coscienza e la dignità lo permettevano a una volontà attiva. «Ma che cosa fa qui?» continuò. «Non è il suo posto. Mary ed io stiamo qualche volta in cucina, perché in casa ci piace essere libere il più possibile. Ma lei è un ospite e deve stare in salotto». «Ah, sto benissimo qui. Niente affatto con Anna che sfaccende e l'infarina tutta. E poi fa troppo caldo qui per lei», interloquì Mary. «Certo», aggiunse la sorella, «venga, sia obbediente», e sempre tenendomi per mano mi fece alzare e mi condusse in salotto. «Si sieda qui», disse indicandomi il divano, «mentre noi ci spogliamo e prepariamo il tè. È un altro privilegio che esercitiamo in questa nostra casetta di brughiera, quello di prepararci pasti quando ne abbiamo voglia, o quando Anna fa il pane o la birra, lava o stira». Chiuse la porta, lasciandomi sola con il signor St. John, che era seduto in faccia a me con un libro in mano. Mi diedi ad esaminare prima il salotto, poi chi l'occupava. Il salotto era piuttosto piccolo e semplicemente mobiliato, ma comodo e accogliente. Le sedie di forma antiquata erano lucenti e la tavola di noce sembrava uno specchio. Qualche caratteristico ritratto d'uomini e di donne d'altri tempi ornava le pareti e uno scaffale con le ante a cristalli conteneva libri e un vecchio servizio di porcellana. Non c'era un ornamento superfluo in quella stanza, nulla di moderno eccetto due cestini da lavoro e una cartella da signora in legno di rosa sopra un tavolino d'angolo. Tutto là dentro, compreso le tende ed il tappeto, appariva vecchio ma ben conservato. Il signor St. John, immobile come uno degli scuri ritratti appesi alla parete, con gli occhi fissi sul libro e le labbra sigillate, non era difficile da esaminare. Fosse stato una statua anziché un uomo, non si sarebbe prestato più facilmente ad essere osservato. Era giovane, poteva avere 28-30 anni. Alto, snello. Il suo viso attirava lo sguardo, tanto puri ne erano i contorni. Sembrava un viso greco con quel naso classico, diritto, e la bocca e il mento da ateniese. È raro che una faccia inglese sia così simile come la sua ai modelli antichi. Capivo che potesse essere un po' urtato dalla irregolarità dei miei lineamenti, essendo i suoi così armoniosi. Gli occhi erano azzurri e grandi, orlati di ciglia scure, e la fronte, pallida come l'avorio, era in parte coperta da una ciocca di capelli biondi. È la descrizione di un volto assai gentile, non è vero, lettrice? Tuttavia, la persona a cui essa si riferisce non dava l'impressione di una natura amabile, arrendevole, sensibile e neppure tranquilla. Sebbene placidamente seduto, come io lo vedevo in quel momento, vi era qualche cosa nella linea del naso, nella bocca e sulla fronte che rivelavano al mio esame un temperamento inquieto o duro o appassionato. Non mi rivolse una parola, né mi gettò uno sguardo finché non tornarono le sorelle. Diana, che andava e veniva per preparare il tè, mi portò un pasticcino appena sfornato. «Lo mangi», mi disse, «deve avere fame. Anna mi ha detto che da questa mattina non ha preso che una minestra d'avena». Accettai, perché infatti il mio appetito si era risvegliato. Il signor Rivers chiuse allora il libro, s'avvicinò alla tavola e mentre si sedeva fissò apertamente su di me i suoi occhi azzurri che sembravano dipinti. Il suo sguardo era penetrante, scrutatore, e capii che se fino allora non mi aveva osservata non era stato per discrezione, bensì perché non lo aveva voluto. «Ha molto appetito?» disse. «Sì, signore. È sempre stata mia abitudine dire... Direi quasi un istinto, in me di rispondere brevemente alle domande brevi direttamente a una domanda diretta. È stato un bene che un po' di febbre l'abbia costretta a rimanere a dieta per 3 giorni, perché sarebbe stato pericoloso cedere subito all'appetito nello stato in cui era. Ora può mangiare, ma con moderazione. Spero di non dovermi nutrire per molto tempo a sue spese, signore, risposi sgarbatamente. No, disse egli con voce fredda, quando ci avrà indicato la residenza dei suoi familiari, scriveremo loro e lei tornerà a casa. Devo dirle francamente che questo non lo posso fare perché non ho né casa né parenti. Tutti e tre mi guardarono, ma senza diffidenza. Sentii che i loro sguardi non esprimevano sospetto, ma piuttosto curiosità. Parlo particolarmente delle due ragazze perché gli occhi di St. John, sebbene chiari nel senso letterale della parola, erano in realtà impenetrabili. Sembrava se ne servisse come di uno strumento per scrutare i pensieri altrui, anziché per rivelare i propri, per cui tanta perspicacia unita a tanto riserbo era fatta più per imbarazzare che per incoraggiare. Intende dire, mi chiese, che è priva di qualsiasi parentela e amicizia? Sì, nessun legame mi unisce a un essere vivente, né ho alcun diritto di ottenere asilo sotto nessun tetto in Inghilterra. È una posizione ben singolare alla sua età. E qui vidi il suo sguardo posarsi sulle mie mani che tenevo incrociate sulla tavola. Mi chiesi che cosa vi cercasse. Le sue parole diedero subito risposta al mio interrogativo. Non è sposata? È ancora nubile? Diana si mise a ridere e disse: Ma St. John non deve avere più di 17 o 18 anni. Ne ho quasi 19, ma non sono sposata. Sentii il rossore salirmi alla faccia per l'amarezza e l'agitazione che ridestava in me quell'allusione al matrimonio. Tutti e tre si accorsero del mio imbarazzo e del mio turbamento. Diana e Mary distolsero discretamente lo sguardo dal mio viso arrossato, ma il fratello, più freddo e più severo, continuò a fissarmi, fino a che l'emozione suscitata in me dalle sue parole mi riempì gli occhi di lacrime. Dove ha vissuto finora? Sei troppo indiscreto, St. John, mormorò Mary a bassa voce, ma egli, piegato in avanti sulla tavola, con lo sguardo fermo e volitivo, esigeva una risposta. Il nome del luogo dove ho vissuto e della persona presso la quale abitavo è il mio segreto, risposi seccamente. Segreto che a parer mio lei ha il diritto di serbare, se così preferisce, non rispondendo né a St. John né ad altri indiscreti, osservò Diana. Ma se non so nulla né di lei né della sua vita, non potrò aiutarla, disse egli, e lei ha bisogno di aiuto, non è vero? Ne ho bisogno e lo cerco, signore. Mi auguro soltanto che qualche vero filantropo mi metta in condizione di trovare un lavoro che io possa fare. Così, con il compenso che mi verrà dato, potrò provvedere a me stessa, anche se modestamente. Non so se sono un vero filantropo, ma intendo aiutarla come meglio potrò a realizzare un proposito tanto onesto. Prima di tutto, dunque, mi dica che cosa è stata abituata a fare e che cosa sa fare. Avevo finito di bere il tè e mi sentivo ristorata. Come un gigante dopo un boccale di vino. La bevanda aveva ridato tono ai miei nervi esauriti, rendendomi capace di parlare con fermezza a quel giudice giovane e perspicace. Signor Rivers, dissi, voltandomi verso di lui e fissandolo come egli fissava me, francamente e senza diffidenza, lei e le sue sorelle mi hanno reso un grande servigio, il maggiore che si possa rendere a un proprio simile. Mi ha salvata dalla morte con la sua generosa ospitalità. Il bene che mi ha reso le conferisce un diritto illimitato alla mia gratitudine e fino a un certo punto anche alla mia confidenza. Della ragazza derelitta che lei ha raccolto le dirò tutto quanto posso rivelare senza compromettere la mia pace e la sicurezza fisica e morale sia mia che di altri. Sono orfana e figlia di un pastore. I miei genitori sono morti prima che io potessi conoscerli. Fui allevata come dipendente in casa altrui ed educata in un istituto di carità. Le dirò anche il nome dell'istituto dove ho trascorso 6 anni come educanda e 2 come insegnante. È l'orfanotrofio di Lowood, nella contea di... Forse ne avrà sentito parlare, il reverendo Robert Brocklehurst ne è l'amministratore. Sì, ho sentito parlare del signor Brocklehurst e ne ho visitato la scuola. Lasciai Lowood circa un anno fa per entrare come istitutrice in una casa. Il posto era buono ed ero contenta, ma fui costretta a lasciarlo 4 giorni prima del mio arrivo qui. Il motivo della mia partenza non posso né devo spiegarglielo. Sarebbe inutile, pericoloso e inoltre le sembrerebbe incredibile. Comunque, nessuna colpa mi può essere imputata. Sono innocente quanto loro tre. È certo però che sono infelice e che continuerò ad esserlo, perché la catastrofe che mi ha costretta ad abbandonare la casa, dove avevo trovato un paradiso, e al tempo stesso strana e spaventosa. Non mirai che a 2 cose abbandonandola, far presto e non essere scoperta. Per riuscire in questo intento dovetti lasciare alle mie spalle tutto quanto possedevo, meno un piccolo involto che nella fretta e nel mio smarrimento dimenticai sulla carrozza che mi condusse a White Cross. Così sono giunta in questa regione, priva di tutto. Ho dormito 2 notti all'aria aperta e ho vagato 2 giorni per la campagna senza mai varcare la soglia di una casa. E in tutto quel tempo ho mangiato 2 volte sole. E la fame, la stanchezza e la disperazione mi avevano ormai ridotta agli estremi quando lei, signor Rivers, mi impedì di morire di sfinimento davanti alla sua porta e mi raccolse sotto il suo tetto. So tutto ciò che le sue sorelle hanno fatto per me da quel momento, perché non ero incosciente durante il mio apparente torpore e alla loro spontanea, sincera, generosa compassione devo non meno che alla sua evangelica carità, signor Rivers. Non farla più parlare adesso, St. John, disse Diana quando mi interruppi. Non è ancora in grado di sopportare emozioni. Venga, venga a sedersi sul divano, signorina Elliot. Involontariamente trasalii, sentendomi chiamare così. Avevo dimenticato il mio nuovo nome. Il signor Rivers, al quale evidentemente non sfuggiva nulla, se ne accorse. Lei ci ha detto di chiamarsi Jane Elliot? Osservò. Sì, infatti, ed è il nome con il quale credo opportuno di essere chiamata per il momento, ma non è il mio vero nome e mi sembra strano quando lo sento pronunziare. Non vuole dirci il suo vero nome? No, temo di essere rintracciata ed evito tutto quanto può condurre alla scoperta del mio segreto. Sono certa che ha ragione, disse Diana, ed ora, fratello, lasciala in pace per un momento. Ma St. John, dopo aver riflettuto qualche istante, ricominciò ad indagare, imperturbabile. Non credo che lei vorrà accettare per lungo tempo la nostra ospitalità. Mi sembra che desideri affrancarsi al più presto dalla compassione delle mie sorelle e soprattutto dalla mia carità. Ho notato la distinzione e non me ne offendo perché mi pare giusta. Vuole essere indipendente, non è vero? Sì, l'ho già detto. Mi suggerisca che cosa devo fare o in che modo posso trovare lavoro, è tutto quel che chiedo. Mi mandi pure anche nella più umile capanna, ma fino a quel momento mi permetta di rimanere qui. Mi spaventa l'idea di ritornare a conoscere gli orrori di una vita di mendica. Certo che rimarrà qui, disse Diana, posandomi sul capo la sua mano bianca. Deve rimanere, insistette Mary con l'accento sincero ma poco espansivo che le era proprio. Come vede, le mie sorelle sono contente di tenerla qua, disse St. John, come sarebbero contente di avere cura di un uccello intirizzito che il vento dell'inverno avesse spinto in casa. Io invece sono più propenso a procurarle il modo di bastare a se stessa e tenterò di riuscirvi, ma le mie possibilità sono limitate. Non sono che il pastore di una povera parrocchia di campagna e l'aiuto che potrò darle sarà molto modesto. Se lei tende a disprezzare le cose umili, bisognerà che cerchi un aiuto più valido di quello che posso darle io. Ha già dichiarato che è disposta a fare qualsiasi lavoro onesto del quale sia capace, rispose Diana per me, e sai benissimo, John, che non ha scelta in quanto a protettori, è costretta ad accettarne uno, puntiglioso come te. Farò la sarta, la cucitrice di bianco, la serva, la bambinaia, se non troverò di meglio, dissi. Sta bene, concluse freddamente St. John, se queste sono le sue intenzioni, le prometto di aiutarla col tempo e a modo mio. Riprese il libro che stava leggendo prima della merenda. E poco dopo io mi ritirai perché avevo parlato a lungo e le mie forze non mi avrebbero permesso di rimanere ancora alzata.